L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino. Musiche di Bruno Nicolai. Regia di Nanni De Stefani. Nona puntata. Rodomonte alla battaglia di Parigi. Lettura poetica di Giancarlo Sbragia. Narratore Gianni Bonagura. Da lungo tempo il re d'Africa Agramante stringe d'assedio Parigi, ultimo ridotto dell'esercito di Francia. Sparsi per il mondo dietro ad amori ed avventure i suoi più valorosi paladini, Carlo Magno attende con speciale impazienza il ritorno di Rinaldo con i rinforzi dall'Inghilterra. La notizia che l'esercito inglese ha passato la Manica raggiunge per primo Agramante e lo mette in allarme. Bisogna che entro l'indomani Parigi sia espugnata, altrimenti sarà tardi. Dagli spalti i cristiani vedono al piede delle mura approntare scale e travi e canestre cariche di frecce. I Mori certo attaccheranno domattina. Re Carlo prega il Signore. Anzi, più che pregarlo, da quell'incallito uomo politico che gli è, cerca di far leva su argomenti di prestigio. Se Parigi cade, che idea si faranno i pagani del potere divino? Il Signore, nella sua infinita pazienza, chiude un occhio sull'impostazione teologicamente discutibile della preghiera imperiale e manda l'arcangelo Michele a cercare il silenzio per averlo alleato dell'esercito franco. Nel convento dove cerca il silenzio, Michele trova invece la discordia. Può essere utile anche lei se si infiltra nel campo d'Agramante. Parigi è cinta da un alto muro, sopra il quale i difensori sono in attesa con pietroni e secchi di pece bollente e di calcina. Suonano le trombe. I saraceni vengono su formicolando sulle loro scale a pioli e i cristiani, appollaiati sulle bertesche, li innaffiano di olio bollente e di macigni. Li prendono di mira con certi cerchi infuocati che si infilano nelle teste come corone o collane. Ma laggiù, nel campo degli assalitori, si sta muovendo qualcosa di grosso. È un guerriero gigantesco che prende la rincorsa, attraversa il fosso al piede delle mura sollevando un turbine d'acqua e di fango. Sembra si vada a spaccare la testa contro la muraglia. No! Va così forte che continua a correre su per il muro in verticale ed arriva fino in cima, tra i merli. Eccolo che mulina la spada in mezzo alle squadre francesi assiepate per resistergli e a ogni fendente innalza al cielo un vortice di teste e braccia mozze e orecchie e piedi e altri pezzi di cristiano. È Rodomonte, re di Sarza e d'Algeri. Indossa un'armatura di scaglie di drago che era appartenuta al suo antenato Nembrotte, quello della Torre di Babele, feroce bestemmiatore al par di lui. Sventola una bandiera sulla quale è ricamata una damigella che tiene un leone al guinzaglio. Il leone dovrebbe rappresentare lui, Rodomonte, e la damigella la sua promessa sposa, Doralice di Granata, ora in viaggio per raggiungerlo. Rodomonte affretta ad espugnare Parigi perché aspetta da un momento all'altro l'arrivo della bella Doralice. Ma se non era che per quello, poteva pur prendersela calma. Egli non sa che Doralice è stata rapita da Mandricardo, re di Tartaria, e quel che è peggio è stata ben felice di farsi rapire. Dietro a Rodomonte, i saraceni assaltano il muro come le mosche d'estate le tavole imbandite, o d'autunno gli uccelletti le vigne. Ma il muro non è che la linea di difesa più esterna della città, e nemmeno la più forte. All'interno del muro c'è un fossato che cinge un secondo argine. I Mori dilagano nel fossato interno e lì scatta la trappola. I cristiani, ritirandosi, danno fuoco alle esche di salnitro e zolfo che comunicano con certe cataste di fascine unte di pece. Il fosso si trasforma in un girone di fuoco. E Rodomonte? Dalla cima del muro spicca un salto e con tutto il peso che ha addosso d'armi e armatura supera ad un balzo i 30 piedi o giù di lì che separano il muro dall'argine, cioè a dire 9 metri, atterrando leggero come sul tappeto d'una palestra e lasciandosi alle spalle fiamme e scoppi. È riuscito a sfondare tutte le linee di difesa, ma ha perso i suoi uomini. Ora è solo e si lancia alla conquista di Parigi. Siede Parigi in una gran pianura, nell'ombilico a Francia, anzi nel cuore. Gli passa la riviera entro le mura e corre ed esce in altra parte fuori, ma fa un'isola prima e va sicura della città una parte e la migliore, l'altre due, chi in tre parti è la gran terra, di fuor la fossa e dentro il fiume serra. Alla città che molte miglia gira, da molte parti si può dar battaglia. Ma perché sol da un canto a salir mira, né volentier l'esercito sbarraglia, oltre il fiume Agramante si ritira verso ponente, a ciò che quindi assaglia, peroché né cittade né campagna ha dietro, se non sua, fino alla Spagna. Dovunque intorno il gran muro circonda, gran munizioni avea già Carlo fatte, fortificando d'argine ogni sponda con scannafossi dentro e case matte. Onde entra nella terra, onde esce l'onda, grossissime catene aveva tratte, ma fece più che altrove provvedere laddove avea più causa di temere. Con occhi d'argo il figlio di Pipino previde ove assalir dovea Gramante, e non fece di segno il saracino a cui non fosse riparato inante. Con Ferraù, Isoliero, Serpentino, Grandonio, Falsirone e Balugante, e con ciò che di Spagna avea menato, restò Marsilio alla campagna armato. Sobrin gli era man manca in ripa a Senna, con Pulian, con Dardinel dal monte, con re Doran, ch'esser gigante accenna lungo sei braccia dai piedi alla fronte. Deh, perché a muover men son io la penna che quelle genti a mover l'arme pronte? Che re di Sarza, pien d'ire e di sdegno, grida e bestemmia e non può star più a segno. Come a salire o vasi pastorali o le dolci reliquie dei convivi soglion con rauco suon di stridule ali, le impronte mosche ai caldi giorni estivi, come gli storni a rosseggianti pali vanno de mature uve, così quivi, empiendo il ciel di grida e di rumori, venian a dare il fiero assalto i mori. L'esercito cristian sopra le mura, con lance, spade, scure, pietre e fuoco, difende la città senza paura, e il barbarico orgoglio estima poco, e dove morte uno ed un altro fura, non è chi per viltà ricusi il loco. Tornano i saracin giù nelle fosse a furia di ferite e di percosse. Non ferro solamente vi s'adopra, ma grossi massi, e merli integri e saldi, e muri dispiccati con molt'opra, tetti di torre e gran pezzi di spaldi. L'acque bollenti che vengono di sopra portano i mori insupportabil caldi, e male a questa pioggia si resiste, che entra per gli elmi e fa ciecar le viste. E questa più nocea che il ferro quasi, or che de far la nebbia di calcine, or che doveano far gli ardenti vasi con olio e zolfo e peci e trementine. I cerchi in munizion non son rimasi, che d'ogni intorno hanno di fiamma il crine, questi scagliati per diverse bande mettono ai saracini aspre ghirlande. Intanto il re di Sarza avea cacciato sotto le mura la schiera seconda, da Buraldo, da Ormida accompagnato, quel Garamante e questo di Marmonda. Clarindo e Soridan gli sono al lato, ne par che il re di Setta si nasconda. Segue il re di Marocco e quel di Cosca, ciascun perché il valor suo si conosca. Nella bandiera, che è tutta vermiglia, Rodomonte di Sarza il leon spiega, che la feroce bocca ad una briglia che gli pon la sua donna aprir non niega. Al leon se medesimo assimiglia, e per la donna che lo frena e lega la bella Doralice è affigurata, figlia di Stordilan, re di Granata, quella che tolto avea, com'io narrava, re Mandricardo, e dissi dove e a cui. Era costei che Rodomonte amava più che il suo regno e più che gli occhi sui, e cortesia e valor per lei mostrava, non già sapendo che era in forza altrui. Se saputo l'avesse, allora, fatto avria quel che fe quel giorno ancora. Sono appoggiate a un tempo mille scale, che non ha men di due per ogni grado. Spinge il secondo quel che innanzi sale, che il terzo lui montar fa suo malgrado. Chi per virtù, chi per paura vale. Convien ch'ognun per forza entri nel guado, che qualunque s'adagia il re d'Algere, Rodomonte crudele, uccide o fere. Ognun dunque si sforza di salire tra il fuoco e le ruine in su le mura. ma tutti gli altri guardano se aprire veggiano passo ove sia poca cura. Sol Rodomonte sprezza di venire se non dove la via meno è sicura, dove nel caso disperato e rio gli altri fan voti, egli bestemmia Dio. Armato era d'un forte e duro usbergo, che fu di drago una scagliosa pelle. Di questo già si cinse il petto e il tergo, quell'avol suo che edificò Babelle. E si pensò cacciar dell'aureo albergo e torre a Dio il governo delle stelle. L'elmo e lo scudo fece far perfetto e il brando insieme, e solo a questo effetto. Rodomonte non già men di Nembrotte, indomito, superbo e furibondo, che dire al ciel non tarderebbe a notte, quando la strada si trovasse al mondo, quivi non sta a mirarsi intere o rotte siano le mura o sabbia l'acqua a fondo, passa la fossa, anzi la corre e vola, nell'acqua e nel pantan fino alla gola. Di fango brutto e molle d'acqua vanne tra il fuoco, i sassi e gli archi e le balestre, come andar suol tra le palustri canne della nostra mallea porco silvestre, che col petto, col grifo e con le zanne fa, dovunque si volge, ample finestre. Con lo scudo alto il saracin sicuro ne vien sprezzando il ciel, nonché quel muro. Non si tosto all'asciutto e Rodomonte, che giunto si sentì sulle bertresche che dentro alla muraglia facean ponte capace e largo alle squadre francesche. Or si vede spezzar più d'una fronte, farchieri che maggior delle fratesche, braccia e capi volare, e nella fossa cader dai muri una fiumana rossa. Getta il pagan lo scudo, e a duo man prende la crudel spada, e giunge il duca Arnolfo. Costui venia di là dove discende l'acqua del Reno nel salato golfo. Quel miser contra lui non si difende, meglio che faccia contro il fuoco il zolfo, e cade in terra e dall'ultimo crollo, dal capo fesso un palmo sotto il collo. Uccise di rovescio in una volta Anselmo, Oldrado, Spineloccio e Brando. Il luogo stretto e la gran turba folta fece girarsi pienamente il brando. Fu la prima metade a Fiandra tolta, l'altra scemata al popolo normando. Divise appresso dalla fronte al petto ed indi al ventre il maganzese Orghetto. Getta dai merli Andropolo e Moschino giù nella fossa. Il primo è sacerdote, non adora il secondo altro che il vino e le bigonce a un sorso n'ha già vuote. Come veneno e sangue viperino l'acqua fuggia quanto fuggir si puote, or quivi muore, e quel che più l'annoia è il sentir che nell'acqua se ne muoia. Tagliò in due parti il provenzal Luigi e passò il petto al tolosano Arnaldo. Di Torse, Oberto, Claudio, Ugo e Dionigi mandar lo spirito fuor col sangue caldo, e presso a questi quattro da Parigi, Gualtiero, Satallone, Odo ed Ambaldo, e altri molti, ed io non saprei come di tutti nominar la patria e il nome. La turba dietro a Rodomonte presta le scale appoggia e monta in più d'un loco. Quivi non fanno i parigin più testa, che la prima difesa lor val poco. San ben ch'agli nemici assai più resta dentro da fare e non l'avran da gioco, perché tra il muro e l'argine secondo discende il fosso orribile e profondo. Oltre che i nostri facciano difesa dal basso all'alto e mostrino valore, nuova gente succede alla contesa sopra l'erta pendice interiore, che fa con lance e con saette offesa alla gran moltitudine di fuore, che credo ben che saria stata meno se non v'era il figliuol del re Ulieno. Egli questi conforta e quei riprende, e lor malgrado innanzi se gli caccia. Ad altri il petto, ad altri il capo fende, che per fuggir veggia voltar la faccia. Molti ne spinge ed urta, alcuni prende pei capelli, pel collo e per le braccia, e sozzopra laggiù tanti ne getta, che quella fossa a capir tutti è stretta. Mentre lo stuol dei barbari si cala, anzi trabocca al periglioso fondo, ed indi cerca per diversa scala di salir sopra l'argine secondo, il re di Sarza, come avesse un'ala per ciascun dei suoi membri, levò il pondo di sì gran corpo e con tant'arme indosso e netto si lanciò di là dal fosso. Poco era men di 30 piedi o tanto, ed egli il passo destro come un veltro e fece nel cader strepito quanto avesse avuto sotto i piedi il feltro, e da questo e da quello affrappa il manto come sien l'arme di tenero peltro e non di ferro, anzi pur sien di scorza, tal la sua spada e tanta è la sua forza. In questo tempo i nostri, da chi tese l'insidie son nella cava profonda, che van scope e fascine in copia stese, intorno a quai di molta pece abbonda, né però alcuna si vede palese, benché ne piena l'una e l'altra sponda, dal fondo cupo insino all'orlo quasi. E senza fin vanno appiattati vasi, qual con salnitro, qual con olio, quale con zolfo, qual con altra similesca. I nostri, in questo tempo, perché male ai saracini il folle ardir riesca, che era nel fosso e per diverse scale credea montar sull'ultima bertresca, udito il segno da opportuni lochi, di qua e di là fenno avvampare i fochi. Tornò la fiamma sparsa tutta in una, che tra una ripa e l'altra al tutto pieno, e tanto ascende in alto ch'alla luna può dappresso asciugar l'umido seno. Sopra si volve oscura nebbia e bruna, che il sole adombra e spegne ogni sereno. Sentesi un scoppio in un perpetuo suono, simile a un grande e spaventoso tuono. Aspro concento, orribile armonia d'alte querele, d'ululi e di strida della misera gente che peria nel fondo, per cagion della sua guida, istranamente concordar s'udia col fiero suon della fiamma omicida. Le case di Parigi, a quel tempo tutte di legno, sono in fiamme. Rodomonte appicca incendi e semina strage dappertutto dove arriva. Ma i saraceni che l'avevano seguito nella scalata delle mura, in numero di 11.028, sono morti tutti nella fossa tra mura e argine, tanto che non ci sarebbe stato posto per contenere tutti i cadaveri se le fiamme non li avessero immediatamente inceneriti. In quel mentre, l'arcangelo Michele e il Silenzio guidano verso Parigi Rinaldo e l'esercito alleato d'Inghilterra. Divisi in tre schiere, inglesi, scozzesi, irlandesi attaccano gli assedianti della campagna e mettono lo scompiglio nelle schiere maomettane. Carlo Magno, impegnato a difendere una porta contro Agramante, non sa ancora queste belle notizie, ma è raggiunto da un messaggero che gliene porta di cattive. Rodomonte da solo sta distruggendo la città e i suoi abitanti, armati o inermi. Carlo accorre. È il palazzo reale che ora Rodomonte sta assaltando, tra le cui robuste mura quei poveracci di parigini avevano cercato riparo e dai cui tetti ora stavano buttando addosso al gigante tegole e travi e pietre e merli. Mentre di fuor, con sì crudel battaglia, odio, rabbia, furor, l'un l'altro offende, Rodomonte in Parigi il popol taglia, le belle case e i sacri templi accende. Carlo, chi in altra parte si travaglia, questo non vede e nulla ancor ne intende. Odoardo raccoglie da rimanno nella città col lor popol britanno. A lui venne un scudier, pallido in volto, che poté appena trar del petto il fiato. «Ahimè, signora, ahimè!» replica molto prima che abbia a dir altro incominciato. «Oggi il romano imperi oggi è sepolto, oggi ha il suo popol Cristo abbandonato. Il demonio dal cielo è piovuto oggi, perché in questa città più non s'alloggi. Satanasso, perché altri esser non puote, strugge e ruina la città infelice. Volgiti e mira le fumose ruote della rovente fiamma predatrice». Ascolta il pianto che nel ciel percuote e faccian fede a quel che il servo dice. Un solo è quel che a ferre e a fuoco strugge la bella terra e innanzi ognun gli fugge. Qual è colui che prima oda il tumulto e delle sacre squille il batter spesso che vegga il fuoco a nessun altro occulto che a sé che più gli tocca e gli è più presso? Tal è il re Carlo, udendo il nuovo insulto e conoscendol poi con l'occhio istesso, onde lo sforzo di sua miglior gente al grido drizza e al gran rumor che sente. vede tra via la gente sua troncata, arsi i palazzi e ruinati i templi, gran parte della terra desolata. Mai non si vidersi crudeli esempi. Dove fuggite, turba spaventata? Non è tra voi chi il danno suo contempli? Che città, che rifugio più vi resta quando si perda civilmente questa? Dunque un uom solo in vostra terra preso, cinto di mura, onde non può fuggire, si partirà che non l'avrete offeso quando tutti v'avrà fatto morire. Così Carlo dicea, che d'ira acceso tanta vergogna non potea patire, e giunse dove, innanti alla gran corte, vide il pagan por la sua gente a morte. Quivi gran parte era del populazzo, sperandovi trovare aiuto, ascesa, perché forte di mura era il palazzo, con munizion da far lunga difesa. Rodomonte, d'orgoglio e d'ira pazzo, solo s'avea tutta la piazza presa, e l'una man, che prezza il mondo poco, ruota la spada, e l'altra getta il fuoco. E della regal casa alta e sublime, percuote e risuonar fa le gran porte. Gettan le turbe dalle celse cime e merli e torri e si metton per morte. Guastare i tetti non è alcun che stime, e legne e pietre vanno ad una sorte, lastre e colonne e le dorate travi che furo in prezzo agli lor padri e agli avi. Sta sulla porta il re d'Alger, lucente di chiaro acciar, che il capo gli arma il busto, come uscito di tenebre serpente, poi ch'ha lasciato ogni squalor vetusto, del nuovo scoglio altiero, e che si sente ringiovenito e più che mai robusto. Tre lingue vibra ed ha negli occhi fuoco. Dovunque passa, ogni animal dà loco. Non sasso, merlo, trave, arco o balestra, né ciò che sopra il saracin percuote, ponno allentar la sanguinosa destra che la gran porta taglia, spezza e scuote, e dentro fatto va tanta finestra che ben vedere è veduto esser puote dai visi impressi di color di morte, che tutta piena qui vi hanno la corte. Suonar per gli alti e spaziosi tetti sodono gridi e femminil lamenti. L'afflitte donne, percotendo i petti, corron per casa, pallide e dolenti, e abbraccian gli usci e i geniali letti, che tosto hanno a lasciare a strane genti. Tratta la cosa era in periglio tanto quando il re giunse e i suoi baroni accanto. Carlo si volse a quelle man robuste che ebbe altre volte a gran bisogni pronte. «Non siete quelli voi che meco fuste contragolante», disse in Aspramonte. «Sono le forze vostre ora si fruste che succideste lui, troiano e almonte, con 100.000, or ne temete un solo, pur di quel sangue e pur di quello stuolo. Perché debbo vedere in voi fortezza ora minor ch'io la vedessi allora?» Mostrate a questo can vostra prodezza, a questo can che gli uomini devora. Un magnanimo cor morte non prezza, presta o tarda che sia, purché ben muora. Ma dubitar non posso, ove voi siete, che fatto sempre vincitor m'avete. Al fin delle parole urta il destriero con l'asta bassa al saracino addosso. Mossesi a un tratto il paladino Ugero, a un tempo Namo ed Ulivier si è mosso, Avino, Avolio, Otone e Berlingero, un senza l'altro mai veder non posso, e ferir tutti sopra a Rodomonte, e nel petto, e nei fianchi, e nella fronte. L'assalto contemporaneo d'otto paladini e di tutti quelli che li seguono non scalfisce neppure la scagliosa scorza di Rodomonte. Ma la presenza dell'imperatore rincuora la turba dei fuggiaschi, che tornano ad assieparsi contro il re di Sarza. Ormai la calca è tanto fitta che anche se lui la taglia come si trattasse di rape o di torsi di cavolo, essa continua a premerlo d'ogni parte, mentre dai tetti e dalle finestre gli piombano addosso valanghe di roba. Finora Rodomonte è ancora incolume, forse gli conviene mettersi in salvo prima che riescano a ferirlo. Sbaragliata una schiera d'inglesi, raggiunge gli spalti sulla Senna e con tutte le sue armi addosso si tuffa e fugge a nuoto. Emerso sulla riva opposta, si volta verso la città in fiamme come pentito d'esserne fuori e già pieno di voglia di ritornare. 8 scontri di lance che da forza di tali 8 guerrier cacciati foro sostenne a un tempo la scagliosa scorza di ch'avea armato il petto il crudo moro. Come legno si drizza, poiché l'orza lenta il nocchier che crescer sente il coro, così presto rizzossi Rodomonte dai colpi che gittar doveano un monte. Guido, Ranier, Riccardo, Salomone, Ganelon traditor, Turpin fedele, Angioliero, Angiolino, Ughetto, Ivone, Marco e Matteo dal pian di San Michele e gli 8 di che dianzi fei menzione son tutti intorno al Saracin crudele, Arimanno e Odoardo d'Inghilterra che entrati eran pur dianzi nella terra. Non così freme in sullo scoglio alpino di ben fondata rocca alta parete, quando il furor di Borea o di Garbino svelle dai monti il frassino e l'abete, come freme d'orgoglio il Saracino, di sdegno acceso e di sanguigna sete, e come a un tempo è il tuono e la saetta, così l'ira dell'empio e la vendetta. Mena alla testa a quel che gli è più presso, che gli è il misero Ughetto di Dordona, lo pone in terra insino ai denti fesso, come che l'elmo era di tempra buona. Percosso fu tutto in un tempo anch'esso da molti colpi in tutta la persona, ma non gli fan più callincude l'ago, sì duro intorno allo scaglioso drago. Furo tutti ripar, fu la città dell'intorno intorno abbandonata tutta, che la gente alla piazza dove accade maggior bisogno Carlo avea ridutta. Corre alla piazza da tutte le strade la turba a chi il fuggirsi poco frutta. La persona del re sì i cori accende, cognun prend'arme, ognuno animo prende. Come se dentro a ben rinchiusa gabbia d'antiqua leonessa usata in guerra, per caverne piacere il popolo abbia, talvolta il tauro indomito si serra, i leoncin che veggion per la sabbia come altiero e mugliando animoso erra, e vedersi gran corna non son usi, stanno da parte timidi e confusi. Ma se la fiera madre a quel si lancia e nell'orecchio attacca il crudel dente, vogliono anch'essi insanguinar la guancia e vengono in soccorso arditamente chi morde al tauro il dosso e chi la pancia. Così contro il pagan fa quella gente. Da tetti e da finestre e più da presso sopra gli piove un nembo d'arme e spesso. Dei cavalieri e della fanteria tanta è la calca ch'appena vi cape. La turba che vi vien per ogni via v'abbonda ad or spessa come ape, che quando disarmata e nuda sia, più facile a tagliar che torsi o rape, non la potria, legata a monte, in 20 giorni spenger Rodomonte. Al pagan, che non sa come ne possa venire a capo, omai quel gioco incresce. Poco per far di 1000 o di più rossa la terra intorno il popolo discresce. Il fiato tuttavia più se gli ingrossa, sì che comprende al fin che se non esce, orca a vigore e in tutto il corpo è sano, vorrà da tempo uscir che sarà in vano. Rivolge gli occhi orribili e pon mente che d'ogni intorno sta chiusa l'uscita. Ma con ruina d'infinita gente l'aprirà tosto e la farà espedita. Ecco, vibrando la spada tagliente, che vien quell'empio ove il furor lo invita ad assalire il nuovo stuol britanno che vi trasse Odoardo ed Arimanno. Chi ha visto in piazza rompere steccato a cui la folta turba ondeggi intorno, il mansueto tauro accaneggiato, stimolato e percosso tutto il giorno, che il popol se ne fugge ispaventato ed egli or questo or quel leva sul corno, pensi che tale o più terribile fosse il crudele african quando si mosse. 15 o 20 ne tagliò attraverso, altri tanti lasciò del capo tronchi, ciascun d'un colpo sol, dritto o riverso, che viti o salci par che poti e tronchi. Tutto di sangue il fier pagano asperso, lasciando capi fessi e bracci monchi e spalle e gambe ed altre membra sparte, ovunque il passo volga, al fin si parte. Della piazza si vede in guisa torre che non si può notar che abbia paura, ma tutta volta col pensier discorre dove sia per uscir via più sicura. Capita al fin dove la Senna scorre sotto all'isola e va fuor delle mura. La gente d'arme, il popol fatto audace, lo stringe in calza e gir non lascia in pace. Qual per le selve nomade o massile cacciata va la generosa belva, ch'ancor fuggendo mostra il cor gentile e minacciosa e lenta si rinselva, tal Rodomonte in nessun atto vile, da strana, circondato e fiera selva d'aste di spade e di volanti dardi, si tira al fiume a passi lunghi e tardi. E sì tre volte più l'ira il sospinse, che essendone già fuor vi tornò in mezzo, ove di sangue la spada ritinse, e più di 100 ne levò di mezzo. Ma la ragione al fin la rabbia vinse, di non far sì ch'addio n'andasse il lezzo, e dalla ripa per miglior consiglio si gittò all'acqua e uscì di gran periglio. Abbiamo trasmesso la nona puntata dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino.